Sto fumando un po' troppo. Le sto alzando un po' troppi. I due amici bla bla bla un po' troppo. La tua diva mi chiama un po' troppo. Sto fumando un po' troppo. Le sto alzando un po' troppi. I due amici bla bla bla un po' troppo. La tua diva mi chiama un po' troppo. La mia medusa fa bling bling un po' troppo. Sto alzando troppi nachos. Mi sento gonfio. La tua donna mi chiama tranquillo, non rispondo. Mi fermano le guardie. Giro giro tondo. Sto fumando Edgar Davids. Non ti ascolto. Money baby, il tuo stipendio sta sul mio polso. Taschi al nono mese. Mi trovi pronto. Vuoi cotta, vuoi cruda. Abbiamo tutto. Sto fumando un po' troppo. Ne sto alzando un po' troppi. I tuoi amici bla bla bla un po' troppi. La tua diva mi chiama un po' troppo. Sto fumando quei rune, non la passo proprio. Tengo la bocca chiusa, no, non parlo troppo. Al petto una medusa, no, non parla troppo. Rimani a bocca chiusa se la guardi troppo. Succo di zenzero, non berne troppo. Ascolti la Dark Polo, non farlo troppo. Miei amici lo fanno per ovvio, a te sembra un gioco. Triplo sette fuori e tardi, c'è il coprifuoco.